Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Lo stipendio medio di un operaio era 600.000 lire. Un caffè costava 400 lire, la benzina 1.280 lire al litro. Fu l'anno che a Roma nevicò a febbraio, come non accadeva da secoli. Allora il biglietto dei mezzi pubblici costava 600 lire. Non c'erano grandi fisime automobilistiche. Ancora giravano i vecchi maggiolini, le 500 e le Diane, tutti i simboli di flussi ideologici oramai sovrascritti. La Fiat 126 costava 5.650.000 lire e la Panda 750, appena uscita, 7.251.000. Allora erano utilitarie e considerate ottime per muoversi in città, anche per giovani professionisti in carriera. Quanti hanno già risposto alla mia surreale richiesta di poco fa? Raccontatemi cosa facevate nel 1986. Oggi di questo parlerò di un anno, parlerò del 1986. Perché proprio quest'anno? Ma l'idea mi è venuta perché giorni fa mi chiese la stampa di Torino, per cui scrivo, di fare un ritratto del 1986. È uscita la notizia, che trattava appunto quel giornale, che Rete Imprese Italia aveva fatto un'analisi sul reddito delle famiglie italiane e hanno visto quest'anno il reddito delle famiglie italiane è avuto un calo importante, il meno 4,8%, quindi è tornato ad essere quello che era delle famiglie del 1986. Cioè noi quest'anno abbiamo esattamente lo stesso reddito pro capite che avevamo nel 1986. Ma la vita allora era molto diversa. Accadevano altre cose, c'erano minori bisogni. Quante cose che oggi incidono fortemente nel nostro budget quotidiano allora nemmeno esistevano. Beh, tutte le spese telefoniche in realtà erano limitate al semplice abbonamento alla SIP o alla Telecom, adesso penso che allora si chiamasse ancora SIP, e via dicendo. E non esistevano i tablet, arrivavano i primissimi computer e costavano tantissimo. Ve lo ricordate quell'anno voi? Io vorrei riproporvi esattamente come l'ho visto io. Per me era un anno importante, molto importante, lo ricordo, stavo a Roma, era l'anno di Chernobyl, era l'anno anche in cui nevicò molto a Roma, ma accaddero anche moltissime altre cose. Fate uno sforzo di memoria, cercheremo di capire come vivevamo nel 1986 e vedremo con i soldi che abbiamo oggi come riusciamo a vivere con lo stesso spirito dell'epoca. No, era molto diverso. Il nostro reddito pro capite, secondo Rete Imprese Italia, è tornato al livello di quello del 1986. Come eravamo 27 anni fa? Ricordo che quando iniziò il 1986 ancora ci cullavamo sulla coda lunga dell'edonismo reganiano, che s'era inventato l'anno prima Roberto D'Agostino. A febbraio Arbore arrivò secondo a Sanremo, illudendoci ancora su possibili connubi gioiosi per clarinetti e chitarrine. Invece poi esplose Chernobyl. Gli isotopi radioattivi occuparono tutto il nostro immaginario con quella nube che ci portò una mattina di aprile, da sempre il mese più crudele. Tutti ci sentimmo contaminati. Fu vietata l'insalata, ma soprattutto il latte fresco. Iniziò l'assalto ai supermercati per accaparrarsi quello a lunga conservazione o in polvere. Cominciate a far muovere le vostre meningi e a tingere nel vostro ricordo profondo. L'86 fu un anno bello perché l'anno prima era stato l'85. L'85 fu l'anno della felicità, fu l'anno di Quelli della notte di Renzo Arbore. Fu un evento importantissimo in Italia. Improvvisamente l'Italia sembrava felicemente rappresentata, finalmente rappresentata realisticamente in un salottino televisivo. Fu un vero programma di culto. Nella sgangherata banda che mise insieme Renzo Arbore fu qualcosa, una svolta epocale nella televisione italiana, ci hanno rappresentati tutti. C'era il comunista già visto con occhio molto critico e molto macchiettistico, che era appunto il buon Ferrini prima che diventasse donna. C'era Frasca che faceva il frate, il potere spirituale rappresentato in un frate sgangherato, ignorante, bestia. C'era Roberto D'Agostino che era il fine intellettuale molto basato sull'apparenza. Per la prima volta sentivo parlare parlare di look, cominciavamo ad orientarci verso l'apparenza. L'apparenza improvvisamente diventava un bene di scambio, qualcosa di molto importante. E poi c'erano tutta un'altra serie di personaggi. Beh, lì fu, diciamo, il punto più alto della rappresentazione felice del paese. Ricordo le file di persone nottetempo di fronte a Via Tolada che aspettavano semplicemente di respirare l'aria di quelli della notte. Gli italiani presenti si risolsero e si scoprirono improvvisamente felici e capaci di essere splendidi, di espandersi. Era anche l'anno in cui si giocava in borsa. Si giocava in borsa con lo stesso spirito in cui oggi si fanno le schedine o si va a fare i gratta e vinci. Tutti giocavano in borsa. Io ricordo quel periodo, lavoravo in Rai, il pomeriggio, dagli usceri agli impiegati, ai fonici, ai giornalisti. Ci si metteva in una saletta davanti a televideo, tutti con il fogliettino e la penna, e cercava di raggranellare soldi. Qualcuno vinceva pure, era molto difficile che qualcuno rimettesse soldi. Chissà perché erano così felici, ma guadagnavamo esattamente quanto guadagniamo oggi. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Buonasera, vietata la vendita di latte fresco e verdura a foglie per 15 giorni in Italia in relazione all'incidente alla centrale nucleare sovietica di Chernobyl. Misura di carattere precauzionale perché la situazione non desta allarme. Questa coppa è anche per tutti i napoletani. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei... Era anche un anno che ci illudevamo che improvvisamente tutti saremmo diventati liberi da ogni costrizione, da ogni pudicizia, da ogni ipocrisia, tanto che al Festival di Sanremo il regno fatato, patinato e incipriato di ogni ipocrisia nazionale, apre e porta una canzoncina ammiccante sul clarinetto e la chitarrina, qualcosa di goliardico, qualcosa di allusivo al sensuale incontro fra organi sessuali. Arrivò secondo, anche perché si giocò l'onda lunga di quelli della notte. Sara, buongiorno. Sara. Buongiorno, signor Nicoletti. No, io in quell'anno là mi ricordo benissimo che quando è venuta sto disastro lì alla centrale, io ero incinta Chernobyl. Di Chernobyl, e io ero incinta di mio figlio, e sicché tutti dicevano non mangiate verdura, non bevete latte, e io, siccome in quel periodo lì mangiavo molta verdura e bevevo molto latte, ho dovuto andare a prendermi, mi prendevo il latte in polvere perché avevo paura di far dei danni, ha capito? Sì, tutti, io mi ricordo, c'era il periodo chiunque avesse a portata di mano una donna incinta, c'erano questi foschi, che poi in realtà nella zona di Chernobyl accadde davvero, queste fosche previsioni dei bambini a due teste, sarebbero nati dei mostri mutanti, la fantascienza e la realtà si fondevano molto. Lei quindi è fra le saccheggiatrici dei supermercati. I supermercati nel giro di poche ore furono svuotati di tutto il latte in polvere, tutto il latte a lunga conservazione. Sì, mi ricordo il latte in polvere, infatti a me non piaceva neanche un po', però era l'unica. Però mi ricordo un'altra cosa, Nicoletti, che io allora ero in maternità, e lavoravo in una fabbrica tessile, e mi ricordo che il mio stipendio in maternità era di 950.000 lire, sicché io ci vivevo abbastanza bene, anche perché lavorava mio marito, e in quel periodo abbiamo messo via anche dei soldi, cosa che non si può fare assolutamente adesso, perciò quando paragonano il 2012 al 1986 fanno un grande errore. Perché quindi lei, scusi, Sara, lo ricorda, io almeno un anno molto ottimistico, almeno si iniziò in maniera ottimistica. Poi Chernobyl ci dette la prima stretta e ci fece capire che qualcosa stava accadendo. Poi accaddero anche altre cose, ci furono i missili di Gheddafi, ci furono vari episodi. Però è un anno che, perlomeno dal punto di vista economico, nessuno mai pensava che avremmo potuto avere dei problemi. No, infatti io vivevo abbastanza bene, avevo, visto che lavoravamo tutti e due, ci venivano in casa dei bei soldi, facevamo una vita, non dico da signore, ma tranquilla, borghese. Invece adesso... Quali erano le spese allora, Sara? Perché oggi, diciamo, il grosso del budget di una famiglia viene speso in consumer elettronico, in telefonini, in necessità di mantenere automobili, la necessità di fare vacanze. Allora qual era, diciamo, la spesa folle che si faceva? Ad esempio, La spesa folle che si faceva era di andare in vacanza. Sì. Una settimana ce la prendevamo di vacanza. e durante la vacanza, cioè, si poteva anche esagerare, nel senso che non ti facevi mancare il ristorante, alla sera la pizza, cose che adesso veramente, quando Berlusconi dice che tutti sono al ristorante, ci saranno anche quelli che vanno al ristorante, ma quelli che hanno un reddito alto, perché io in questo periodo qua non mi permetto neanche una pizza, perché se lei va a mangiare una pizza a meno di 30 euro non li spende. Cioè, con il coperto, la pizza, una birra e poi magari il caffè, cioè vanno via 30 euro a testa. Cioè, perciò è inutile che vengano a paragonare il 2012. Non è inutile, non è che lo fanno perché sono cattivi, è che in realtà corrisponde il reddito pro capite improvvisamente, ma è un gioco quello che stiamo facendo. Hanno fatto il calcolo appunto dicendo: guarda, abbiamo lo stesso reddito pro capite che avevamo nell'86. Noi questa mattina diciamo sì. Ma non abbiamo le stesse tasse. Esattamente. Viviamo, ma sì. Tasse. Ma infatti, quello stiamo capendo, abbiamo le stesse tasse, soprattutto la vita era diversa, erano altri bisogni e soprattutto altri consumi. Nicolò, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, io concordo perfettamente con la signora e con quello che dicevi poc'anzi. In quanto al reddito non sono molto d'accordo, perché il reddito che percepivamo allora in proporzione era notevolmente superiore a quello di oggi. Tieni presente, però giustamente come dicevi, il consumismo, sono d'accordo. Infatti non quanti anni aveva Nicolò nell'86? Io nell'86 avevo 35 anni e mi sono discusso la mia tesi di laurea in ingegneria, un po' vecchiotto, però... Se l'era presa comoda, diciamo, Sì, perché lavoravo, Nicoletti, per questo. Certo, chiaro. Ero dipendente dell'Enel e poi nell'81, stante il fatto che io mi sarei laureato prestissimo, perché mi sarei dovuto laureare nell'80, 82, a quel punto lì abbiamo creato l'azienda di famiglia nel settore delle telecomunicazioni. E voglio allacciare il discorso appunto per il reddito. E abbiamo iniziato noi nell'85 a costruire i telefoni che poi venivano installati nelle auto per conto della SIP. Ti ricordi la SIP? Certo, sì, sì. Diciamo che la rete RTMS nell'86 era entrata in funzione da un paio di mesi e era coperta soltanto Roma e Milano. Esatto, poi si cominciò a coprire tutta la parte appenninica. Allora senti, mi interessa molto, per questo mancava nel mio pezzo, non avevo elementi. Tu che li costruivi, quanto costava il telefono in auto? Io mi ricordo, allora scusa, l'avevo perché c'era la radio mobile della Rai con cui andavo in giro a fare le dirette, aveva questo telefono in macchina, ancora con la cornetta nera, quelle di bachelite nera, e la gente si fermava e guardava, il telefono in macchina, io mi sentivo come se fossi Paperon de Paperoni, anche se era la macchina... Avevi quello con i pulsanti che tu schiacciavi, pulsante corrispondeva a un numero di telefono. Prima ancora c'era quello con le rotelline che si giravano per selezionare il numero, ancora più antico. No, quello lì era già avveniristico rispetto a quello che dico io, sì, perché quello che dico di cui ti parlavo io poc'anzi, ogni spia corrispondeva a un numero telefonico, punto, potevi farne 6 o 7 al massimo, perché erano già codificati. Poi con la rete a 450 MHz, quella di cui parlavi te, l'RMTS, praticamente è stato introdotto il telefono, quello quadrato con la cornetta nera, che c'era la rotellina sopra, che componeva il numero direttamente. Senti, quanti ne vendevate in Italia a quel periodo? All'inizio, allora, dunque, devi sapere che il primo telefono costava al pubblico 8 milioni e mezzo più IVA. Quindi, infatti io mi ricordo, era una spesa da super magnati, certo, non c'aveva certo, nessuno. Certo, all'inizio non se ne vendeva granché, diciamo che anche perché non era molto semplice ottenere il telefono. Subito dopo, nell'87, se ne cominciarono a vendere parecchi, ma devi sapere che il boom di quel telefono è stato l'installazione sui panfili. Io abito a Viareggio e noi abbiamo una grande tradizione in fatto di panfili, di imbarcazioni di lusso. Da Adnan Khashoggi col famoso Nabila, oggi di proprietà di Bill Gates, Valentino col team blu. Quindi soprattutto chi aveva la barca era già ricco, quindi naturalmente per lui era una sciocchezza spendere 8 milioni per un telefono. Certo, perché a parte loro costava molto di più, perché poi si facevano le interfacce da collegare al centralino, eccetera, eccetera. Ma il fatto importante era questo, che i ripetitori di quella rete radio erano tutti collocati a quote non inferiori a 1000 metri. Di conseguenza, se tu consideri che l'onda radio si propaga... Sì, però adesso... Questo... No, Nicolò, te capisco, ma stiamo facendo una trasmissione sulla telefonia e usciamo di tema. Comunque, molto chiaro, il tuo contributo è stato importante. Abbiamo capito che oggi il telefonino, che rappresenta la spesa diffusa familiare, probabilmente sulla quale si riflette di più, si trova la tariffa giusta, allora era qualcosa che non apparteneva nemmeno alla sfera del possibile. 8 milioni costava un telefono. Tutto è pronto per una grande prova. Ti aspetta una macchina versatile e sofisticata. Macintosh, il rivoluzionario computer Apple. Il personal computer si usava soprattutto per scrivere e creare database. Arrivò il primo PC compatibile Amstrad, che costava in Italia circa 1 milione di lire ed era venduto abbinato a una stampante ad aghi. Nel 1986, da solo 2 mesi era entrata in funzione a Roma e Milano la nuova rete RTMS, Radio Telephone Mobile System. Ma il telefono in auto era una spesa nemmeno valutabile per i comuni cittadini. Solo le aziende e qualche VIP potevano permetterselo. Però c'era un altro aggeggio elettronico, così chiudiamo il capitolo dell'elettronica di quegli anni. Che sembrava molto figo, io mi ricordo lavorando alla radio si facevano molti servizi su quelli che erano i messaggi nella segreteria telefonica lasciati dai VIP. Ognuno delle persone note lasciava dei messaggi spiritosi, io stesso che me ne ero comprata una e costava tanto, costava 300.000 lire, quella non omologata, sennò bisognava fare un abbonamento e averci quella della telefonia pubblica e quindi costava veramente troppo. La compravo e mettevi dei messaggini molto spiritosi, quello più divertente era che ero morto e quindi era inutile chiamare, che non c'ero. I più tecnologicamente avanzati, al massimo, facevano crepare di invidia gli amici con l'effetto speciale di una segreteria telefonica. Non incideva poco sul budget mensile. Per risparmiare si prendeva quella non omologata. Costava almeno 200.000 lire per il modello che permettesse il riascolto a distanza dei messaggi ricevuti. Si azionava un ridicolo apparecchietto che produceva un cicalino da inviare tramite la cornetta di un telefono pubblico. Funzionava una volta su 10, ma suscitava grande ammirazione. Richiamare ostentando la frase «Sono fuori, ma vedo che mi hai cercato a casa». Twitter non esisteva nemmeno nei pensieri, ma si riuscì comunque a sopravvivere. A cercare più di quel che ha. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Allora, il teorico antropologo degli Umarell si sta producendo in un suo studio dettagliato sugli anni Ottanta, quindi sul 1986 probabilmente hai già fatto delle riflessioni che noi non abbiamo ancora fatto. Perché è importante quest'anno secondo te? Ecco, allora, il 1986, secondo le mie riflessioni, secondo i racconti che sto preparando, è l'ultimo degli anni Ottanta, l'ultimo che ha l'atmosfera anni Ottanta. Ovviamente io parlo in soggettiva perché la fine degli anni Ottanta per me finisce con la fine della mia età da minorenne, perché io nell'86 appunto compio 18 anni. In quegli anni lì infatti io vivevo un grande Bengodi rispetto ad adesso, perché invece di lavorare studiavo, quindi ero sul groppone dei miei genitori. In quell'epoca lì cosa studiavo però? Facevo il ragioniere programmatore e studiavo il COBOL e programmavo in COBOL, e poi visto che erano appena arrivati i personal computer si stava cominciando a programmare in BASIC e stavamo rinnegando tutta la programmazione in assembler che invece ci aveva coinvolto nel 1985. C'è da dire, Danilo, che ancora l'informatica non era legata a nessun pensiero, a nessuna ideologia, eri poco più che un elettrotecnico considerato che si faceva, esatto, queste cose. Nel 1986 e soprattutto negli anni precedenti si immaginavano dei futuri informatici pazzeschi grazie alla musica, perché comunque c'erano degli artisti anche popolari del calibro di Alberto Camerini che ci facevano vedere un utilizzo ludico della musica e soprattutto dell'informatica. Parole come computer, comunque parole come elettronica, quindi c'erano state fatte vedere dai Kraftwerk, ad esempio, oppure da altre band che manipolavano l'elettronica. Sì, era un gruppo che andavano tutti dipinti, ecco, dipinti d'argento. Che, diciamo... quelli erano i Rockets. Ah, i Rockets. Sì. No, i Kraft erano... ricordameli sì. Allora, scusa, cosa no, facevano? I Kraft erano quattro ingegneri tedeschi che la loro canzone più conosciuta era The Robots, quella We Are The Robots, che è diventata anche una pubblicità di un cibo per gatti. Quindi questi erano questi austeri ingegneri di Düsseldorf che si costruivano i loro strumenti, facevano questi concerti che sembravano appunto dei robot. Quindi c'erano queste parole, il robot, ad esempio c'era il robot che diventava umano, e qui addirittura Alberto Sordi si innamorava di Caterina. Ah, la robot. Sì, diciamo che il cyber pensiero, che non a caso è di metà degli anni Ottanta, cominciava a trapelare attraverso delle forme ancora del tutto indirette. Melog, la realtà condivisa. Scrivi il tuo abbigliamento di oggi. Vabbè, allora, diciamo, queste qui le scarpe sono i fry, sono degli stivali americani, sì, ovviamente, non certo libici. Allora, poi americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, giubbotto, cintura del ciarro e una camicia, diciamo, sulle 50-60 mila di quelle che... Poi c'è in più l'abbronzatura. Sì, che è dovuta. Che è necessaria. Sì, diciamo di sì. E come ve la fate l'abbronzatura? Molti facendo decine di lampade, io per fortuna me la cavo con una o due. Ecco un altro aspetto che non volevo ricordare di quegli anni, i paninari, il mito del paninaro, gli stivali fai, quelli neri col borchione che si portano tutti scalcagnati, il Moncler, la giacca a vento per andare a sciare che si metteva come se fosse una cosa fighissima. E fu un momento particolare di quell'epoca, il paninaro è l'inizio del disimpegno, dal paninaro poi venne fuori il tronista che ne è la sua versione pop. Dino, buongiorno. Parliamo del 1986, ricordo. Sì, io lo ricordo abbastanza bene, non devo fare un grosso sforzo mnemonico, perché avevo appena finito il servizio militare e collaboravo in una università, ero laureato, no? Eccetera. No? Oggi faccio il professionista, all'epoca collaboravo in questa università. Quindi c'era una possibile... obiettivo di riuscire a entrare nell'università, se uno a quel momento metteva il piede giusto dentro. Ma però era molto precario, non era ancora molto strutturata la cosa, tant'è che poi uno non si tratteneva più di tanto perché doveva pensare pure al futuro, no? E comunque diciamo che collaborando con un paio di persone molto importanti, facevo anche un'altra attività, cioè praticamente il tassista, perché io portavo in giro loro e loro si accompagnavano con persone di altissimo livello, cioè io parlo anche di politici di allora, eccetera. Però c'ha il guardiaspalle, faceva più che l'autista. Sì, no, avevo un osservatorio privilegiato, guardi, penso ogni tanto di scriverci un libro su sta roba. No, ci faccia capire, siamo curiosi, cosa significa... lei arrotondava portando in giro personaggi famosi che incontravano politici famosi nel senso noti, voglio dire politici, no, persone che avevano ruoli mi faccia un esempio tanto mi faccio fare nomi, ma insomma se no non capiamo, esponenti di partiti di, diciamo, e allora c'erano solo i socialisti quegli anni, ancora era l'anno della riconferma craxiana, ma un po' di tutto c'erano socialisti, repubblicani, anche democristiani, insomma nella mia macchina saliva un po' di tutto. E dove li portava? No, perché Tangentopoli uscì qualche anno dopo ancora. No, non c'era Tangentopoli, questo è molto prima di Tangentopoli, si creavano le condizioni per cui dopo accadde Tangentopoli. Erano gli anni della Milano da bere. Ma guardi, io le devo dire sinceramente, non sentivo di queste cose. Io avevo questa specie di osservatorio, no? Quasi che io potessi scrivere i diari dell'automobile, insomma. Devo dire, anzi, con un certo stile, che forse oggi neanche si ci si immagina, certo. Ecco, con un certo stile quello che si faceva era, io quello che volevo, tra le altre cose, insomma, si parlava di, ad esempio, nomine, no? Nomine in quest'ente, in quell'altro ente, eccetera. È tutto perfettamente lecito, erano loro poi che, cioè, si muoveva decidere nell'area del sottogoverno, così si dice. No, allora, il sottogoverno, la cosa che è interessantissima, secondo me, e questo era il contributo che volevo dare, sì. Là si esprimeva un sottogoverno di grandissimo, secondo me, potere, no? Perché comunque si decidevano cose di livelli istituzionali molto importanti. Ebbene, tutt'oggi io faccio tutt'altro, non ho più questo osservatorio che è di, sì, allora. Però io, anche se no non starebbe qui a parlare vedendo, con me. Vedo che ancora oggi, no, sembra strano, ma gli stessi personaggi di allora esprimono lo stesso potere. Cioè, lo esprimono in termini concreti, però, dice. Cioè, vabbè, è stato, guardi, Dino, è stato molto sibillino. Qualcosa però ci ha fatto intravedere, ci ha fatto capire dietro le maglie. Pasquale. Salve, buongiorno. Anno 1986. Sì, io non sono ancora molto vecchietto, avevo 15 anni nell'86, se ne ho 42. Quindi me lo ricordo benissimo. Dico, qual era il sogno di un quindicenne nell'86? Il sogno di un quindicenne era il mio personale, che era quello che volevo raccontare, era questo. Io avevo un papà, un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano nel settore tessile, che aveva circa 30 dipendenti. Lavorava tanto e stavamo bene. Insomma, non è che era. Sì, ma qual era il suo desiderio? Cosa che, come il oggi? Desiderio era quello di continuare a lavorare così come ha fatto mio padre. Sì, no, io parlo di oggetti. Oggi chiedi papà, voglio l'iPhone 5. Era sicuramente il Commodore 64. Quello era il quanto mitico. Costava? Mezzo milione? Un milione costava. E glielo comprerò suo padre? Come? Glielo comprerò suo padre? Sì, dopo tante insistenze si riuscì a comprarmelo. Costava 999.000 lire. Mi ricordo ancora, comprato a Bari con il floppy disk, che era già una cosa all'avanguardia, con il discone quello grande. Non vorrei farla troppo tecnologica, butto un altro argomento così allargo questa trasmissione. Ricordate che nell'86 per la prima volta il genere umano, ma in Italia arrivò e creò subito grandi preoccupazioni, cominciò a capire che bisognava stare attenti quando si faceva l'amore, quando si hanno rapporti sessuali. Nell'84 si cominciò a parlare di AIDS, ma allora tutti dicevano, ma è una cosa che riguarda soltanto gli omosessuali, non ci interessa. Nell'86 viene pubblicato il primo rapporto americano sull'AIDS e tutti capimmo che da quel momento in poi nulla sarebbe più stato come prima. Chi se lo ricorda questo? Raffaele, io me lo ricordo. Se lo ricorda, ha, cioè, 15 anni, lei ancora 15 anni. Io me lo ricordo, ma all'epoca eravamo sotto la cupola di forte spinta cattolica, quindi erano discorsi che un quindicenne forse. Sì, poi un quindicenne ancora al massimo poteva infettare se stesso, quindi diciamo che doveva venire ancora l'epoca del grande pasto, secondo me. Poi non lo so, forse mi sbaglio. Raffaele. Eccoci qua. Lavorava come DJ in discoteca, quindi lei su questo argomento forse può dirmi qualcosa. Sì, ma alternavo in quella discoteca di Roma, se posso dire i nomi. Il Tartarughino, e c'erano la Cabala lì all'Osteria dell'Orso. Sì. E lì vedevo questi personaggi. Roba da Alberto Sordi. Sì, sì, c'era De Michelis tutte le sere. Sudato che ballava. Lo posso dire, sì. Sì, sempre pieno di donne. Vabbè, ma fa parte della storia patria. Lui con la camicia bianca, con le chiazze di sudore sotto che balla, scatenato, quello, con la panza e i capelli unti, circondato da, figuriamoci, quelle che dopo sono diventate le varie olgettine e via dicendo. Ogni allora era diverse, certo. Stavano sempre lì. E poi c'era anche l'onorevole Altissimo, mi ricordo, sì, che veniva con sfoggiava delle topolino rimodernate. Bellissime, e tutte le sere c'era questo. Sempre parlando della stessa categoria, diciamo, uno c'ha le topolino, l'altro c'ha le topoline. Era una battuta stupida, però comunque sempre lì rimanevamo. Vabbè, andiamo avanti. Ivo Germano, vorrei essere serio se possibile. Ivo Germano, buongiorno, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università del Molise. Sta scrivendo proprio con Masotti il libro dedicato agli anni Ottanta. Ivo Germano, vediamo se riusciamo a far capire. Intanto, buongiorno. Se riusciamo a far capire questo insieme di speranze frustrate che ha già determinato Masotti, ma legato più a una sua personale esperienza anagrafica, Fu l'anno veramente l'86 in cui il grande mito, il sogno dell'edonismo degli anni 80 cominciava a fare qualche scricchiolio? Partirei da una premessa, mi collego. L'86 è forse l'anno meno anni 80 degli anni 80, per due motivi. Innanzitutto, questo avete già un po' accennato, la sessualità che non è più edonistica, sfrenata. Io penso che gli anni 80 inizino e finiscano attorno ai corpi, che è la grande, come dire, scoperta degli anni 80, e un po' si riverberava anche dagli interventi precedenti, c'è sicuramente questa piccola frenata, e soprattutto sono gli anni in cui gli 80 iniziano a diventare un po' retorica, e mi spiego. Sicuramente da un lato il 1986, avevo 20 anni, era pieno di futuro. E se devo agganciarla a una cosa viva che mi ricordo, era la moda che era di moda. Un po' il primo intervento che lei ha, diciamo, evocato col Paninaro, quello però era già, come dire, una risacca degli 80. Cioè l'86 per me è un anno crocevia, io lo chiamerei così, un anno di snodo, dove gli 80 perdono la pila iniziale. Gli 80 sono gli anni dove all'inizio c'è, quello avete sicuramente esplorato, c'è un'esplosione, c'è un'effervescenza contagiosa, sono stati gli anni meno moralisti del secolo, dove non interessava fare la morale, bisognava essere protagonisti, erano veramente in crisi di futuro. L'86 secondo me inizia a esserci una minima frenata, è un'anticipazione di tante cose che arriveranno dopo. Allora, ci fermiamo un istante, devo abbandare il traffico. Do tre punti. Le martellate sui denti che possono rappresentare in maniera concreta quello che dice il sociologo Ivo Germano sono: la scoperta dell'AIDS, quindi hai voglia a scoprire la sessualità, alla liberazione, improvvisamente ti arriva giù come una ghigliottina che ti comincia a porre dei problemi. Gli attacchi dei missili su Lampedusa, sarà una cosa su cui oggi ci ridiamo, ma allora avevamo molta paura, avevamo la guerra a un passo, pensavamo che la Sicilia fosse già coinvolta in un grande conflitto dove già per la prima volta vedevamo l'Occidente che gonfiava i muscoli contro un mondo strano, singolare, allora rappresentato follemente da Gheddafi. E poi Chernobyl fu la fine della grande illusione del progresso, della realtà plastificata della realtà che tecnologicamente innestata nella nostra natura organica, che veniva annunciata in quei primi esperimenti musicali di cui parlò Masotti. Melog, la realtà condivisa. Videoregistratore Philips Matchline Digitale. Sei grande. La chimera dei mondiali del Messico, poi vinti dall'Argentina, accelerò la ponderata decisione dell'acquisto di un videoregistratore, solo attraverso lunghe riunioni di famiglia, perché la spesa di mezzo milione circa era considerata voluttuaria. Sanciva però uno status. Chi l'aveva non era più schiavo del palinsesto. In più, poteva invitare amici a casa per vedere i pochi film che si affettavano nelle videoteche. La scelta dello standard era opzionabile. I puristi ancora resistevano sul migliore Betamax, che vide il netto sorpasso del più commerciale VHS, caldeggiato dai più dissoluti tra i maschi di casa, solo perché offriva maggiore scelta di cassette zozze, soprattutto con Cicciolina. Parliamo del 1986, mi viene scritto da un ascoltatore. L'86 finì nel fallimentare mondiale messicano. L'effetto euforizzante del mondiale vinto in Spagna tracollò. Capimmo che la festa era finita. E poi, a proposito del VHS, ricordate i primi videoregistratori, costano mezzo milione, c'erano riunioni di famiglia per capire se comprarlo o no, e tutti spingevano per il VHS rispetto al Betamax, che era molto migliore, assolutamente migliore come qualità. Perché? Perché VHS girano tante cassette zozze, i primi film porno a disposizione di tutti, vere sedute con gli amici, con il VHS, con guardare e riguardare Cicciolina e la banana al cioccolato, tutti questi titoli fantastici. Viene ricordato da un ascoltatore che erano anche gli anni di Super Sex, Gabriel Pontello, i Fixi Fix, Zent Zen. Voi non sapete cosa sia, ma qualcuno ricorderà. Ivo Masotti. Allora, ci fissi in genere. Danilo Masotti. Ivo. No, Ivo. Sì. Vai da Ivo. No, perché arrivo Germano e Danilo Masotti. No, su questo ultimo tu hai una sei di generazione più fresca, quindi ricordi meglio. Questa sì. Improvvisa frustata del fatto che l'AIDS diventa una realtà, non era più una leggenda metropolitana per i gay americani, ma toccava tutti noi. E contemporaneamente questo mondo esplosivo che viene fuori della pornografia, del sesso libero, dalle ragazze di drive-in fino a, diciamo, i primi film porno a fruizione familiare. Sì, tutto stava per noi diciottenni, sedicenni, quindicenni, trovare l'amico benestante che avesse un videoregistratore e un maggiorenne che andasse a noleggiare le cassette, cioè, quindi questo era l'iter del periodo. Il Six Chen Chen invece era tipo fotoromanzo pornografico, mi sembra. Sì, fotoromanzo zozzo, c'è cioè una specie di supereroe che quando diceva questa frase i fix zent zent scattava il fluido erotico. Non so perché era trescissimo, lo guardiamo oggi fa ridere, potremmo distribuirlo negli oratori, tanto rispetto a oggi era ridicolamente trash. Però allora era un grosso personaggio. Ivo Germano invece, prima avevo fatto una crasi, docente in sociologia processi culturali all'Università del Molise. Corrisponde in realtà che in realtà fu l'anno meno anni 80, come dice lei, proprio perché arrivarono delle grandi frenate rispetto alle spinte propulsive verso la libertà, verso la gioia, verso il benessere. Beh, direi proprio delle vere mannaiate sull'immaginario, no? Era un immaginario infinito quello degli anni 80, era l'immaginario, non so, quelli della notte, la conquista della notte, le persone che uscivano, gli interscambi, la possibilità di flirtare e quant'altro. Fu anche l'anno di Gorbachev, si ricorda? L'anno di Gorbachev, secondo me, io poi parto molto da... Cioè l'inizio della fine del blocco sovietico, non è... Si cominciava a pensare. Cioè il mondo tornava in movimento, però attenzione, cioè veramente se c'è una cosa positiva dell'86 è iniziare a scrostarsi di certe ideologie. Piano piano, in controluce qualcosa si muoveva. Secondo me però, in Italia abbiamo avuto la fortuna, un'ipotesi azzardata, sarà neanche bislacca, però abbiamo avuto la fortuna di avere una prova visiva di quasi di un sipario che cala sugli anni 80. E mi riferisco alla spallina di Patsy Kensit che a Sanremo, proprio nel 1986, cosiddetto Pala Sanremo, dove andavano, diciamo, gli ospiti stranieri, non a caso, se non sbaglio, presentato da Carlo Massarini, che è uno dei grandi aedi degli anni 80 con Mr. Fantasy in poi, è stato uno dei grandi cantori degli anni 80. Diciamo immarcescibile tuttora. Immarcescibile, tutto quasi monumentale, ecco, per immarcescibile. La spallina che cade di Patsy Kensit, che è, diciamo, da un lato un knockout birichino, una certa pruderia istituzionale di Pippo Baudo, Sanremo, con tutta la retorica dei fiori, la TV del focolare, eccetera, e dall'altra quella spallina su un vestito corto, tipico made in Italy, tipico del look, del total look, come si diceva allora, gli stilisti italiani che hanno veramente anticipato certa globalizzazione, mercantile, ma comunque l'hanno anticipata anche dal punto di vista simbolico. Secondo me quella spallina è simbolicamente un sipario che cala sugli anni 80. Non è che si vide poi tanto, No, però era una spallina che cadeva. Strasa, secondo me, anticipava quello che poi la fine degli anni 80 sono stati, come dire, un rotolarsi negli anni 90. Secondo me dall'86 in poi si vedrà la fine brusca degli anni 80 per gli italiani, se usiamo le metafore sportive, il fallimento d'Italia 90, che doveva essere il trampolino anche dei grandi lavori, delle grandi opere, eccetera, che tuttora vediamo. Professore, ma come mai, secondo lei, ancora non c'è un'epica degli anni 90? Le epiche decennali, c'è quella degli anni 50, 60, gli anni 70, gli anni 80, poi finiscono le epiche generazionali, come mai? Perché non c'era più, come dire, l'ABC da cui iniziare. I favolosi 90 nessuno lo dice, non esistono. Non c'è una scarpa in cui riconoscersi, non c'è una canzone, non c'è l'aria del tempo in cui riconoscersi. i tempi diventano chiusi nelle case, non esiste la tecnologia mediare, dagli anni 90 poi la tecnologia la fa da quindi fu fantastico e trovo molto attuale la lettura da cui siamo partiti, di vedere avevamo lo stesso reddito di quegli anni ma oggi non abbiamo nulla che ci caratterizzi, non abbiamo qualcosa che sia simbolo dell'epoca in cui viviamo, e quello era un anno dove ancora esplodevano i simboli, ma poi non ce ne furono più. A lunedì.